Siamo con Fabio di Atenei in Rivolta di Roma, della Sapienza. Volevamo un commento sulla giornata di oggi, un primo aggiornamento su quanto è accaduto e sui motivi per cui oggi gli studenti a Roma erano in piazza. Sì, dunque, ciao a tutti. Oggi era previsto in Sapienza un convegno organizzato dal Ministero dell'Ambiente per parlare di biodiversità e green economy per il rilancio del paese, così come si diceva insomma, nella presentazione dell'evento, che doveva svolgersi nell'aula magna del rettorato alla presenza di diverse figure istituzionali di spicco, tra i quali il Presidente della Repubblica Napolitano, il Presidente del Consiglio Letta, il Presidente delle Camere Grazia e Boldrini, oltre a vari ministri del governo, da Lupi a Orlando, Saccomanni, a Sin, e al Presidente della Regione Zingaretti e al Presidente di Confindustria Squinzi. Praticamente tutto l'establishment politico-economico italiano si doveva vedere questa mattina nel rettorato della Sapienza per questo convegno. Insomma, noi abbiamo deciso di aprire un percorso, diciamo, una settimana con anche un'assemblea molto partecipata a Lettere martedì, di lanciare una mobilitazione per rifiutare quella che secondo noi era una passerella, una delle solite passerelle, una delle tante passerelle in cui queste figure politiche del nostro paese vengono a farsi riprendere per apparire sui telegiornali della sera e per rifiutare da un lato sicuramente i termini in cui si discuteva lì dentro, perché comunque lì dentro si parlava di green economy, e innanzitutto si palesava l'evidente legame tra, cioè, anzi, l'evidente tentativo di subordinare la ricerca di interessi privati, perché il fatto comunque che alla presenza di numerosi ricercatori della Sapienza stessero a discutere, diciamo, tra virgolette, delle conseguenze dei loro studi, il nostro governo con Confindustria ci fa capire un po' l'orientamento che si vuole dare alla ricerca, e poi il fatto che si parli di green economy quando di verde in questo paese non c'è nulla, anzi la logica è quella di proseguire costruzioni, grandi opere inutili e dannose che devastano i territori e che sottraggono fondi, esempio, all'istruzione pubblica, ci sembrava un po' ipocrita il discorso che veniva fatto lì dentro. E oltretutto mi pare che questa cosa, insomma, che avete cercato di fare mettesse in crisi anche un sistema di sfruttamento, no? Che sta dietro la green economy e che questo tipo di persone continuano a perpetrare, mi dicevi della Confindustria, insomma, avete messo comunque al centro anche queste questioni. C'è poco di verde anche a Green Economy, ma la logica è sempre la stessa, cercare di ottimizzare, diciamo, sull'altare del profitto ogni cosa, diciamo, cui si mette mano. In più, per noi questa comunque voleva rappresentare anche un'occasione di rimettere anche al centro del dibattito pubblico assolutamente sterile, di rimettere diciamo, i temi diciamo, che viviamo tutti i giorni, appunto, della formazione, il problema ad esempio della disoccupazione, il giovanile, della precarietà, diciamo, cercare di metterlo nel dibattito pubblico proprio andando diciamo, a disturbare in qualche maniera i personaggi più importanti della scena politica del nostro paese che avrebbero spiegato a più sapienza, personaggi che poi, diciamo, si pongono in diretta continuità con chi sostiene al martellare e continuano a, diciamo, portare avanti politiche che il mondo della formazione lo attacca in continuazione. Pensiamo diciamo, ai ritocchi al criterio di assegnazione del fondo del finanziamento ordinario inserito nel decreto Fare qualche mese fa, oppure il decreto sui punti organico della carrozza che tanto ha fatto discutere in queste settimane, tanto mobilitava l'Università del Sud, per non parlare della bozza di riforma carrozza circolata in queste settimane che ha legato alla legge di stabilità, per il momento sospesa, ma che sicuramente ci lascia intravedere quali sono le politiche anche di questo governo in tema di mondo della formazione. Però ce ne fosse stato bisogno, perché forse Sì, cambia rischio chiaro. per E questo momento. soprattutto la risposta l'avete avuta oggi in una maniera. Ecco, Siamo ad oggi, se esattamente. magari puoi raccontarci anche cosa è successo oggi, insomma. Diciamo, è successo che a fronte di un corteo di studenti e studentesse sì, aveva deciso comunque di girare per le strade della città universitaria, anche se vogliamo non accettando le limitazioni, questa mattina è stata comunque una città ovviamente universitaria blindata, nonostante ad esempio vari esponenti, i principali protagonisti, diciamo Letta, Napolitano, Boldrini, Grasso, avessero annunciato la loro rinuncia alla partecipazione, senza che si muovere ovviamente delle nostre contestazioni, comunque si era messo in piedi, diciamo, un sistema di militarizzazione forte, un'università transennata, se vogliamo, diciamo, inagibile, inaccessibile, gli studenti la vivono tutti i giorni. Noi, diciamo, abbiamo deciso invece di scendere la città universitaria e di portare, diciamo, le nostre costanze direttamente sotto un rettorato dove forse non ci volevano far arrivare. La risposta è stata l'ingresso del quartiere della polizia all'interno dell'università, una scena che non si vedeva da anni, se non da decenni, appunto, e che, diciamo, ha caricato il corteo alle spalle mentre il corteo defluiva dopo aver sanzionato il rettorato, ovviamente chiuso e barricato, dopo averlo sanzionato, il corteo defluiva e cioè l'ha caricato alle spalle cercando di disperderlo. Peraltro delle cariche molto violente, cioè che andavano ben al di là delle cariche alleggerimento, anche perché banalmente non c'è stato un confronto con la polizia a carico stretto. Quindi Quindi diciamo nessuno si è tolto i caschi oggi tra i poliziotti, abbiamo visto una situazione diversa rispetto a quella degli scorsi giorni. esatto, forse la polizia oggi non si sentiva a suo agio perché non vedeva bandiere tricolori sventolanti, non vedeva gridare diciamo, all'onore dell'essere italiani, dell'essere tutti italiani, non vedeva insomma quei fascismi, chiamola così, che invece sicuramente sono stati a suo agio nei giorni passati, tanto da togliere il segno di complicità viva, insomma, evidentemente studenti e studentesse della Sapienza che manifestano per un'altra gestione del mondo della formazione, per un altro futuro, se vogliamo, per un'altra idea di università e che reclamano un welfare studentesco che era tutti e tutti, visto comunque migliaia di studenti che ogni anno sono costretti ad abbandonare gli studi, non sono visti di buon occhio quanto i personaggi, insomma, di quei slogan. È chiaro che hanno notato una scelta, un tentativo degli studenti di stare da una parte ben definita, che fosse di critica a determinate politiche, e loro si sono messi a protezione di questo tipo di cose, ecco, quindi molto diverso rispetto alle cose che abbiamo visto negli scorsi giorni, insomma. Sì, chiaramente, perché comunque diciamo, le idee che ci portavano in piazza erano chiaramente di rottura vera diciamo, con la situazione che viviamo, andavano ad attaccare i responsabili di quello che gli attacchi quotidianamente subiamo, denunciavano diciamo, un governo, no, che poi in questi giorni si è aperto il dibattito sulla sua legittimità per la sentenza della Corte Costituzionale, ma che noi non abbiamo mai giudicato legittimo semplicemente perché c'è un'azione di quei poteri forti, della Troica, dell'Unione Europea che impongono le politiche di austerità da qualche anno a questa parte e quindi diciamo che fanno gli interessi insomma, dei soliti noti. Tra l'altro, se è così una battuta, la situazione invece di oggi sarà abbastanza tragica, se vogliamo. Sicuramente la scena che abbiamo visto oggi sembrava forse anche un po' una metafora di quello che poi è la politica in tema di università, ovvero esattamente come ogni anno si spendono all'università migliaia di studenti, questa mattina effettivamente si è cercato di buttarli fuori proprio concretamente, fisicamente, insomma, manganellandoli e caricandoli perché sicuramente eravamo una voce scomoda all'interno dell'università. Ancora una volta, insomma, il governo delle larghe intese ha dimostrato cosa significa larghe intese, significa reprimere uno spazio di dissenso, fare in modo che le politiche da portare avanti, designate dalle varie lettere che arrivano dalla BCE, vengano portate avanti senza disturbo, non solo diciamo, in Parlamento, ma anche e soprattutto fuori. Va bene, Avete altre iniziative in programma per continuare questo tipo di iniziative? Noi oggi abbiamo comunque, ovviamente, tra l'altro poi oggi comunque ci sono stati anche due arresti, fortunatamente rilasciati da un paio d'ore. Noi abbiamo deciso comunque di individuare anche da subito, diciamo, dei responsabili diretti dello scempio che è accaduto questa mattina. Al di là del fatto che noi proseguiremo, secondo noi avevamo deciso che questa giornata non sarebbe stata una giornata evento, ma sarebbe stata, diciamo, un'occasione per tornare a prendere parola su una serie di questioni. E ovviamente questo piano lo manteniamo vivo e comunque continueremo indisturbati, diciamo, nella costruzione del percorso che ci porta a prendere parole in maniera sempre più forte anche nei prossimi mesi, anche in ottica della primavera, guardando ad esempio ad alcune scadenze di Roma, come la disoccupazione giovanile che saranno a Roma, e monitorando quello che si muoverà in tema di formazione, visto appunto questa riforma che avanza le porte. Al di là di questo, chiaramente quello che vogliamo fare nell'immediato è andare a segnalare dei responsabili dello scempio che è accaduto questa mattina, e quindi ad esempio denunciare la vergognosa gestione del rettore Frati, che sicuramente ha una responsabilità diretta nell'aver permesso comunque questo convegno, ma questo ormai siamo abituati da anni, perché Frati, insomma, oltre ad essere un personaggio sull'università, ci mangia e ci fa soldi, anche un personaggio che si compiace di fare queste passerelle nell'aula magna del rettorato, quando poi magari mancano gli spazi per far fare lezione agli studenti, ma nella magna del rettorato non mancano mai le feste di Frati e le varie sfilate dei potenti di turno, lui amici, ma che a maggior ragione ha una responsabilità in quello che è successo stamattina, altrimenti ha permesso l'entrata della polizia all'università e ha permesso alla polizia di fatto di caricare in corso di studenti, una cosa che non si vedeva da anni, che non vogliamo mai più vedere. Per fare in modo che questo non accada, abbiamo ovviamente le dimissioni immediate di Frati, per questo abbiamo rilanciato minuti un appuntamento pubblico per domani, per mezzogiorno e mezzo, alla facoltà di lettere, per fare in modo, insomma, di ritornare all'università, di far capire che non siamo stati timoriti da quanto è successo questa mattina, ma che anzi lavoriamo nel senso di dare una risposta. Sì. Esatto. Va bene, ringraziamo quindi Fabio di Ateneo in Rivolta perché ci ha rilasciato questa intervista per Connessioni Precarie, e di sicuro, insomma, ci aggiorneremo in futuro. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Thank you.